24 di Giovanni Minoli. Governatore, quali sono i suoi rapporti con il motore di ricerca Pollio? È vero che le fornisce i dati sugli elettori? La domanda è stata ripresa. Lui ha risposto? No, ma ha avuto molto risalto online. Bene, Conway ha un'arma molto potente, un motore di ricerca. È potente perché con quello lui può sapere cosa pensate, cosa volete, dove siete e chi siete. Può trasformare tutte le ricerche in voti, vale a dire in proiettili che possono uccidere le mie chance di vittoria. Suppongo che ai signori appesi a queste pareti sarebbe piaciuto avere a disposizione un'arma simile. Il vostro telefono, quello della persona seduta accanto a voi, del vostro vicino, di chi conoscete, dei 300 milioni di americani che non conoscete. Ecco, questa era una puntata della serie House of Cards di Netflix, in cui il protagonista in corsa per la rielezione a presidente degli Stati Uniti viene a scoprire, a sapere che il suo avversario utilizza una società di raccolta di dati personali che ha una potenzialità mostruosa, perché è capace di indirizzare le scelte politiche di ogni singola persona, di ogni singolo elettore. Questa è fiction. Ma nella realtà, nelle ultime elezioni americane, le cose non sono andate molto diversamente, anzi forse sono andate oltre. Donald Trump ha assoldato la Cambridge Analytica, una società di strategie di comunicazione raccolta che si presenta così. La comunicazione è radicalmente cambiata. Se spendi $1 billion per la campagna, devi essere senza regole. La campagna di Donald Trump ha utilizzato una società londinese d'analisi dati come supporto strategico. I dati dei social media sono oggi incredibilmente potenti. Ed ecco perché questa piccola società è diventata uno strumento così potente in politica. Ecco, grazie alla raccolta di dati personali, la Cambridge Analytica ha creato una campagna elettorale che parla ad ogni elettore a seconda del proprio gusto, della propria preferenza, dei dubbi, dei sogni, delle abitudini. Insomma, Donald Trump ha parlato non a tutti nello stesso modo, ma ad ognuno dei suoi elettori nel modo giusto. Federica Nocera, di 27 anni, master in ingegneria a Oxford, è l'analista dei dati per la Cambridge Analytica e fa parte del team che ha costruito la vittoria di Trump all'elezione, proprio con tecniche simili a quelle che abbiamo sentito nella puntata di House of Cards. Ecco, Federica Nocera, buongiorno. La vostra società come è stata scelta da Trump? Cambridge Analytica è una delle società più importanti di data science per campagne elettorali, grazie al nostro approccio scientifico che combina raccolta e analisi di dati e marketing digitale. Cioè, esattamente per fare cose. Cambridge ha svolto molteplici funzioni, in particolare il data science, la ricerca nel senso di polling e il marketing digitale. Tutto questo era per trovare gli elettori più propensi ad essere persuasi a votare per Trump. Quindi la vostra sede operativa però durante le elezioni era in Texas, perché? La sede digitale della campagna proprio era. Ah, era quella. Il vostro lavoro esattamente in cosa consisteva, detto in parole semplici che si capiscano bene? Il nostro compito principale era identificare dei potenziali elettori per Trump. A livello di data science, insomma, ci occupavamo di analisi di dati che arrivavano tutti i giorni, dei dati nuovi, dai nostri poll. E questi venivano usati per aggiornare dei modelli predittivi. Dei modelli predittivi e tu in particolare cosa facevi? Mi occupavo appunto di creare questi modelli, per stimare la preferenza di certi gruppi di elettori per il candidato o per modellare la probabilità di presentarsi alle urne o la sensibilità verso particolari questioni di politica. Ecco Federica, molti dicono che il vostro lavoro è stato un lavoro determinante per la vittoria di Trump, è vero? Beh, le campagne elettorali sono vinte dai candidati. Naturalmente, vabbè, sì, d'accordo. Il nostro approccio può aiutare il candidato a dirigere il suo messaggio, diciamo, in maniera più precisa. Ecco, ma quanti italiani c'erano nel vostro team? Eravamo 3 su 4 nel team di Data Science. Data Science che vuol dire, per capire bene? Data Science è praticamente l'analisi di dati combinato con la creazione di modelli predittivi. Voi facevate le previsioni in base ai dati che vi arrivavano? Sì, esatto. E questi dati... Da dove arrivavano? Che dati erano? Facebook? Da dove? Noi sviluppavamo dei questionari e poi raccoglievamo delle risposte sia per telefono che online, che poi combinavamo per, non so, i 17 stati, diciamo, di battaglia. Ma in che cosa Trump, secondo te, Federica, è stato superiore alla Clinton nell'uso dei social, a parte il fatto che aveva voi? Un'opinione personale è che Trump è stato molto abile nello sfruttare la sua personalità, diciamo, per creare attività sui social, e ha fatto scalpore, portando anche a una copertura anche alta dalla parte dei media tradizionali. Ma in che stato avete avuto la soddisfazione più grande voi? Io direi la Florida. Vabbè, è lì che si vincono le elezioni, insomma, più o meno. Assolutamente, è sempre stato lo stato più importante da vincere fin dall'inizio, però la sera dell'elezione ci ha proprio portato un po' un brivido di emozione, perché i risultati del nord-ovest erano molto più positivi e questo era veramente il primo indizio di quello che sarebbe poi accaduto. Ed era molto grazie al vostro lavoro? Questo è sempre stato uno degli stati che abbiamo focalizzato, insomma, quindi in sì. Parte, forse. Per capire proprio bene, voi raccoglievate i dati che vi arrivavano dappertutto, no? Da ogni fonte. Li analizzavate e poi li personalizzavate? Diciamo che abbiamo un database molto ampio su molti americani. E quanti milioni di americani? Quanti? Probabilmente intorno ai 200 milioni. Ok. Beh, certo, un database molto, molto grande, molto largo. Sì, e su questo database voi profilavate i singoli, le singole persone? Sì, creavamo dei modelli per predire le probabilità di proprio degli individui a o votare per un candidato particolare o per presentarsi alle urne. Ecco, ma nello scontro tra i media tradizionali e i social, qual è il punto a favore dei social? Sicuramente la velocità di diffusione e l'ampiezza dell'audience raggiungibile, poi con un feedback quasi immediato. Ecco Federica, Trump ha speso molto meno della Clinton per gli spot. Gli spot sono un mezzo superato oramai? Secondo me il marketing digitale permette di raggiungere, diciamo, un target audience molto più specifico con una pubblicità particolare. Che costa meno. Lo spot televisivo ha un audience, diciamo, generalizzato. Indistinta. Ecco, ma la vostra superiorità tecnica è stata proprio quella di raggiungere delle audience particolari. Sì, no? Direi assolutamente. Sì. Cioè, questa è la qualità specifica del vostro lavoro? Completamente, sì. Sapere chi contattare in che momento con, diciamo, più o meno che messaggio. Cioè, quindi praticamente parlando a ognuno la sua lingua. È quello che provavamo a fare. Provavate più o meno successo. Mi sembra successo discreto, no? Da poco in Italia si è votata per il referendum, Renzi ha perso. Voi avete valutato i suoi errori di comunicazione? Per, insomma, poter fare questo tipo di lavoro avremo bisogno di mettere insieme un team dedicato che, diciamo, ha accesso a certi dati e che può svolgere proprio una ricerca approfondita. Ma come società sareste in grado di organizzare una strategia nella prossima campagna elettorale di Renzi o di altri? Certo, saremo in grado di sviluppare, diciamo, una strategia di comunicazione digitale. Ma su che basi? Il nostro servizio è su misura, perché alla fine ogni candidato è diverso, ogni elezione è particolare, come abbiamo ma tutti hanno l'idea di fare delle campagne su misura, ma la vostra specificità è quella di farle come? È quello di credere, diciamo, nei dati più attuali. Ma mi fai un esempio concreto? Cioè, per convincere me a votare Trump, cosa avresti fatto? Beh, ci dovrei un po' studiare prima di poterlo sapere. Però, per esempio, mandavamo tipo dei messaggi specifici su, non so, le policy di immigrazione o del servizio sanitario a dei gruppi di elettori diversi. Senti, tu sei un'italiana che vive a Londra. Dopo la Brexit, che cosa è cambiato per te? Personalmente ancora non ho sentito l'effetto. Ma è vero che con la vostra società avete aiutato anche la Brexit? E questo è quello che dicono dicono i giornalisti, però non... Dicono la verità o dicono bugie i giornalisti? Dipende. Non ne sono al corrente. Non ne sei al corrente. 800 24 0024, numero verde, 349 238 6666, l'SMS... C'è Andrea da Modena che ci scrive, chissà se Poletti ha sentito questa intervista, nella quale si dice che nel team londinese vi erano 3 italiani su 4 fra quelli che hanno aiutato con queste nuove tecniche Trump a vincere. Beh, è una bella osservazione, Andrea. Mario, questa rivoluzione nelle campagne elettorali è una rivoluzione che cambia però la prospettiva dell'impostazione delle campagne anche per il futuro. Immagina se si candidasse Zuckerberg, il fondatore di Facebook. È quello che è una delle ipotesi che si sta facendo. Ecco, secondo me bisogna impedirglielo. Per un semplice motivo, che se io dispongo della profilazione di milioni e milioni e milioni e milioni e milioni e milioni di dati, ho un potere immenso che poi uso per scopi politici, cioè, diciamo, il conflitto di interessi che è imputato giustamente a Berlusconi viene moltiplicato perché Facebook, di noi c'è chi sa tutto e noi non sappiamo nulla di chi sa tutto di noi. Ma è esattamente così. Poi, se posso dire, diciamo, tutti i metodi che usano queste società di consulenza sono bravissimi, intendiamoci. Questa fa psicometria, in particolare associata ai dati, questo almeno si capisce dall'intervista. Assolutamente, è il valore aggiunto della psicometria. Sono molto interessanti, poi naturalmente ci vuole il candidato. Ma la questione dei dati di Facebook, dei titani della rete, e ripeto, questa cosa di Zuckerberg che va oltre Orwell, dovrebbe essere, ancora una vietato, volta ci ripetiamo, dovrebbe essere vietato, dovrebbe essere il primo punto dell'agenda politica della governance globale. Naturalmente non interessa a nessuno finché non accadrà. No, è come il bail-in. Esatto. Pietrangelo, che dici? Questo è il meraviglioso futuro che ci aspetta? È stato sempre così, siccome il mezzo è il messaggio. Sì. Parlare a ognuno la propria lingua, in altri tempi si sarebbe detto demagogia, propaganda, adesso è database. È il meccanismo di sempre, non c'è una grande novità. Lo stesso ingegnere Nocera, che cosa diceva prima? La personalità di Trump ha influito tantissimo per costruire la sua vittoria. Quindi la domanda che dobbiamo farci è: oggi la massa a determinare il leader o è il leader a manovrare la massa, come da sempre si è fatto? Credo che questa sia la fase in cui la molteplicità dei segnali, dei messaggi e quindi anche la volatilità delle opinioni debbano essere manovrate col vecchio metodo, che è quello dell'apprendista stregone. Beh, poi emerge che Trump comunque era un outsider. Questa è una cosa positiva, secondo me, dell'elezione di Trump, cioè tutto lo sciamanesimo da big data sulla Clinton è stato smentito, perché avevano sbagliato tutti gli algoritmi e soprattutto avevano sbagliato l'assunzione politica. Ma poi forse hanno sbagliato il candidato anche, parliamo. Il candidato. E poi, scusa Giovanni, c'è un'altra cosa, mi aggancio alla questione di chi ha tirato su Pietrangelo. Trump, essendo un outsider, è un segnale positivo. Certo, democrazia. Per la politica. Questo bisogna dirlo con forza, perché allora lo sarebbe anche Zuckerberg. No, perché ha una base di dati manipolabile troppo grande. Comunque, in attesa dell'insediamento di Trump il 20 gennaio prossimo, con un passaggio di consegne che sta diventando ogni giorno più complicato, noi abbiamo con noi il professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, professore, lei ha scritto che oggi l'America ha 2 presidenti, di cui il primo getta macigni sulla strada del secondo. Con quali obiettivi, secondo lei? Ma io credo che Obama voglia lasciare una traccia, naturalmente, della sua personalità, della sua missione che aveva dato a se stesso al momento della campagna elettorale, della prima campagna elettorale, e poi credo che vi sia anche, come accade spesso in politica, un sentimento di ostilità nei confronti di un candidato che considera impresentabile. Però lo stile è uno stile inedito. Ma Sì, in altri tempi ci sono state naturalmente situazioni analoghe, ma non così acute, non così violente, per così dire. Saranno le prime cose che cancellerà Trump, secondo lei, queste iniziative di Obama, soprattutto contro la Russia? Certamente lo farà o cercherà di farlo, in alcuni casi riuscirà indubbiamente, sarà molto più difficile in quei casi in cui i provvedimenti esecutivi di Obama dovranno essere rimossi con operazioni giudiziarie, in altre parole le difficoltà ci saranno. Ci saranno. A me sembra che vi sia quasi, lo dico con una certa preoccupazione, sì, perché mi sembra, sì, un'esagerazione, ci siano i sintomi, i prodromi di una guerra civile. Addirittura. Cioè i democratici non ci vogliono stare, come si dice a Roma. Sì, i democratici non ci vogliono stare, questa volta hanno dalla propria parte, per così dire, un doppio vantaggio. Prima di tutto non bisogna dimenticare che Hillary Clinton è stata eletta con 2,5 milioni di voti in più rispetto a Trump, e in secondo luogo Trump è per il momento paralizzato. Beh, non è ancora neanche insediato, diciamo. Ecco, professore, ma lei ci crede al report delle agenzie di intelligence americano sullo spionaggio dei russi? Perché a leggerle, come ha fatto il nostro Mario Secchi, non si scopre niente di straordinario. Ma per la verità loro hanno fatto due cose contemporaneamente. Hanno fatto un rapporto di cui naturalmente conosciamo soltanto la sintesi. Vabbè, certo, naturale. E poi hanno fatto una curiosa cosa che chiamerei un discorso sul metodo. Dicono che quando loro dicono una certa cosa va presa naturalmente con tutte le... Insomma, dicono e non dicono, dicono e si contraddicono, insomma. Sì, senta, però cosa c'è di strano nel fatto che al Cremlino tifassero per Trump dopo quello che Obama ha detto e fatto contro la Russia? Mi sembra una cosa normale. Ma direi che c'è di più, c'è il fatto che sempre tradizionalmente i sovietici prima e i russi dopo hanno preferito i candidati repubblicani. Certo, infatti è sempre stato così. È sempre stato così perché i repubblicani tutto sommato sono più realisti. E poi con loro nella storia dell'Unione Sovietica in questo, certo, caso, le esperienze fatte sono sempre state positive, da Nixon a Reagan, esatto, loro riuscivano sempre a mettersi d'accordo. Ecco, resta il fatto, professore, che Putin sembrava morto, sconfitto, l'economia debolissima quando cominciarono le sanzioni, ha chiuso da vincitore il 2016 con la guerra in Siria, insomma è un grande statista, è uscito. Qual è il segreto della diplomazia di Putin? La fragilità, la debolezza dell'avversario o la sua positiva qualità? Lui aveva due obiettivi quando è diventato presidente, il primo era quello di modernizzare la Russia, sì, e questo obiettivo dipendeva da altri fattori che lui non poteva controllare, certo, come per l'appunto il prezzo del petrolio. L'altro, il secondo obiettivo era di restituire alla Russia l'autorità perduta. Quello l'ha centrato in pieno. E quello l'ha centrato in pieno e quello gli garantisce un consenso, un'approvazione da parte dell'opinione pubblica. Molto forte. L'Occidente, sì, si è dimenticato. Ma per esempio la Turchia, prendiamo la Turchia che è un caso di scuola quasi addirittura. Erdogan ha subito il golpe, ha fatto il controgolpe e sostanzialmente oggi è alleato di Putin, ma sta nella NATO. Allora? Sta nella NATO e ancora per poco? Perché nessuno ha il coraggio di cacciarlo o nessuno ha interesse a cacciarlo e lui stesso ha interesse a non rompere drasticamente con l'Occidente. Ma secondo lei andrebbe cacciato per un minimo di chiarezza, voglio dire? Se la chiarezza serve a qualche cosa va bene, ma non serve a non nulla. Non è detto che serva, ecco. Meglio lasciar stare. Ma devo dire che in questo momento lui ha certamente un interesse molto evidente a stare con Putin, perché gli Stati Uniti in un certo senso gli stanno facendo la guerra, anche se continuano a conservarlo nella NATO e usare le sue basi militari. Lui ha torto a ragione, sostiene che dare ospitalità al suo maggiore nemico è un atteggiamento ostile. E allora se è un ostile, lui è amico di coloro che non sono amici dei suoi cattivi. Certo. Senta professor Romano, ma la NATO secondo lei con l'arrivo di Putin sarà riformata, perché si trova tra le incudine del martello, messa così? Vede, quello dipende tutto da noi, tutto dall'Europa. Se perché? L'Europa è pronta a fare un passo avanti sulla strada della propria difesa, della propria sicurezza, a garantire se stessa senza avere sempre bisogno degli americani, a quel punto la NATO viene di per sé, quasi spontaneamente, sì, automaticamente riformata. Ecco, ma lei vede segnali in questa direzione, a parte il fatto che la Germania in qualche modo un pochino ha cominciato a riarmarsi? Ma qualche cosa vedo, naturalmente, perché mi sembra che a un certo punto qualche iniziativa è stata presa in questo senso ed è stata accolta anche tutto sommato abbastanza bene. La difesa europea è ridiventata un tema all'ordine del giorno, ma naturalmente questo tema, per renderlo più concreto, bisogna mettere dei soldi sul tavolo. Naturalmente, ma secondo lei, professor Romano, all'Italia conviene Trump? Io credo che all'Italia dovrebbe convenire l'Europa. L'Europa. Ah. E dell'Europa diventare in qualche modo una specie di modello nei limiti del possibile. E invece nell'ultima fase del governo Renzi noi abbiamo preso esattamente la strada opposta. Infatti, ma Renzi si era esposto troppo nella campagna elettorale della Clinton? Ma Renzi ha fatto un ragionamento strettamente domestico e strettamente elettorale. Ha pensato che non bisognasse lasciare al populismo italiano il monopolio delle critiche all'Europa. E allora dice, le posso fare anch'io le critiche all'Europa. Se questo è il problema. E ha cominciato a farle. Senta, ma Trump ha in mente una svolta protezionista, è un bene o un male secondo lei? Ma io credo tutto sommato che i vantaggi che vengano dalla globalizzazione rimangano maggiori degli svantaggi, ma mi rendo conto che la globalizzazione è stata troppo veloce. Qualche disastro lungo la strada lo ha fatto. A questo punto credo che qualche correzione alla globalizzazione nelle sue concezioni più drastiche, più radicali, debbano essere fatte. Senta, in questo quadro tra Trump e Putin, che comunque in qualche modo si riparleranno in modo diverso, la diplomazia vaticana di Papa Francesco ha un ruolo, come è sembrato avere soprattutto all'inizio del suo pontificato e anche dopo l'incontro a Cuba col primate della chiesa russa? La diplomazia vaticana ha un ruolo quando è chiamata ad esercitarlo da una platea molto larga di potenze e di uomini politici. Certo. Se il Vaticano volesse fare delle cose senza contare dapprima sul consenso generale, non combinerebbe nulla. Niente, però la Chiesa ortodossa oggi ha un grande peso nello spazio politico della Russia, perché Putin diciamo la ascolta molto. Allora questa linea di accordo tra la Chiesa ortodossa e il Papa forse rispondono a quell'esigenza che dice lei. Vede, fra le due chiese c'è un problema fondamentale ed è quello del primato del vescovo, sì, di Roma. Non credo che la Chiesa romana sì, abbia intenzione di rinunciare al primato del vescovo di Roma, e non credo che il patriarca di Mosca abbia l'intenzione di concedere. Quindi non dà molto valore a questo incontro? No, certamente è meglio che si parli, che non il contrario, ma non ho l'impressione che faranno molta strada. Ecco, professor Romano, un'ultima domanda. Qual è secondo lei il pericolo più grande che corriamo nel 2017? Lei ha detto prima una cosa molto forte, vede segnali di guerra civile negli Stati Uniti. È il pericolo più grande che corriamo? Ma naturalmente quando una grande potenza collassa, per così dire, o non è più in grado di esercitare il suo ruolo, lascia un enorme vuoto, e questo vuoto prima o dopo da qualcuno viene riempito. Io credo che questa sia un'occasione per l'Europa. Quindi non vedo soltanto, cioè, la debolezza degli Stati Uniti offre un'opportunità all'Europa. Questo se è... l'Europa voglia di coglierlo, questo è il momento di farlo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mi sembra, Mario, che queste parole di Romano sono parole fortissime. Un uomo, sì, così che conosce così bene la realtà internazionale, così prudente e attento, che parla del collasso degli Stati Uniti e di un rischio di guerra civile, insomma. Beh, però è abbastanza condivisibile quello che dice, anzi condivido pienamente. Guardiamo che cosa succede nella realtà di tutti i giorni in America. Bianchi contro bianchi, neri contro neri, bianchi contro bianchi, messicani contro neri, neri contro messicani, messicani contro bianchi, cioè è una società esplosa letteralmente. In più devi considerare che l'elezione di Trump, essendo stata un vero cambio del paradigma, quelli che si chiamano, gli storici anglosassoni chiamano turning point, punti di svolta, no? E ha creato questa rottura, per cui quando tu tra il serio e il faceto dicevi al professor Romano non c'è vorno sta, ma quella cosa popolare si traduce poi in una rivolta reale. E tu Pietrangelo, capito? Che pensi di questa teoria forte di Romano? E c'è un periodo di stanca che tocca tutta la civiltà occidentale, e gli Stati Uniti d'America rappresentano la punta massima di questo mondo, di questo orizzonte, ed è quello che abbiamo raccontato anche noi attraverso i nostri microfoni nella fine dell'establishment, nell'incapacità di dare una direzione al mondo e a se stessi. E quando Sergio Romano evoca la guerra civile si riferisce anche a un atteggiamento di netta separatezza all'interno della società americana, dove purtroppo ritorna il refrain che noi abbiamo conosciuto in Europa e che adesso si fa prepotente negli Stati Uniti d'America nel considerare i cittadini separati in serie A e in serie B, perché quando Meryl Streep fa eco a una campagna di pregiudizi, sta ripetendo quello che poi è stato l'errore della Clinton, cioè di considerare una marmaglia che si è impossessata della stanza dei bottoni, e quindi c'è un pregiudizio antropologico che è una cosa che conosciamo benissimo in Italia, che si è costruita sulla grande impostura dell'antifascismo, ma che sembrava essere superato, anzi fantasticamente superato, con una presidenza nera come quella di Obama, no? In fondo Obama sembrava rappresentasse un punto di sintesi di queste problematiche. È la sindrome di indovina chi viene a cena però capovolto, nel senso che è ovvio che un presidente nero è molto più glamour e adatto alle copertine di Vanity Fair, mentre invece questo che c'ha sta specie di pappagallo in testa è considerato impresentabile. Noi l'abbiamo conosciuto con la vicenda di Berlusconi, lì si è moltiplicata a una potenza tale che adesso è diventato un paradigma per tutto il mondo. C'è una citazione di Tocqueville che secondo me funziona, dalla democrazia in America: perché una classe è bassa, non bisogna credere che tutti quelli che ne fanno parte abbiano il cuore basso, sarebbe questo un grande errore. Tocqueville, molto tempo fa, aveva capito tutto. Molto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms, alcuni molto interessanti. Qui dice Ulisse, ci scrive: speriamo in Trump per l'eliminazione della NATO e la conseguente creazione di un autonomo sistema di difesa europeo, che è un po' quello che diceva anche Romano, che lì si apre uno spazio eventuale di maggiore autonomia, diciamo così, almeno per l'Europa. E poi Marco Brenda che dice: però non dimentichiamoci che Hillary Clinton ha avuto 2,5 milioni di voti in più, ma ha perso. Sì, ha avuto 2,5 milioni di voti in più, e il risultato di quel voto è che i democratici che hanno votato per la Clinton hanno eletto il presidente della California, perché poi questo è il punto. L'Electoral College negli Stati Uniti serve a eleggere il presidente degli Stati Uniti, non il presidente di New York o della California. I padri fondatori, cioè la democrazia sta lì. I padri fondatori erano molto intelligenti. Molto, cioè. Ancora 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, che ci fai ascoltare oggi? Arriva Happy Day left us on the floor, and you breathe me till you're not feeling sure. Everything will brighten up if we go to Brighton. I'll take you along there. Everything will lighten up if you feel too frightened. I'll make it this. Allora C'era Winnie oggi in metropolitana, portava con sé un pettine, un rossetto, lo spazzolino da denti, l'ombrellino e una rivoltella. Felice della sua esistenza, Winnie invece di stare ferma camminava in lungo e in largo. Ha chiamato Samuel Beckett, ha chiesto questo brano con un messaggio: chi si ferma è perduto. I'll squeeze into a dress so I can be like you, and then I'll see your baby. Mario. Mario, prima di sentire la tua bolla, c'è sì. Polverosi che ci chiede: chiedi a Secchi per favore se dare i nomi completi di cattivi pagatori MPS serve o no. Polverosi come si chiama di nome? C'è solo scritto Polverosi, no, cognome. No, no, perché c'è uno dei tanti che seguono. Rispondiamo adesso, prima un po' di musica. Prima un po' di musica. Che gioia la notte, ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare. Bello che poi tanto questo pezzo di Jovanotti, è per gli innamorati, senti. Davvero un bel po'. Bello. Quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Beato chi ha l'amore. È dannato chi non ce l'ha. Allora Giovanni, allora. La domanda di Polverosi è se sia giusto o no pubblicare i nomi. Esatto, quella. Ha che usato l'espressione cattivi pagatori? Cattivi pagatori, sì, ma adesso non sofisticare. No, no, perché il sofisticare è molto importante. Allora, certo. Io il 29 dicembre sul foglio avevo scritto che bisogna faccio un mio coso biografico perché è importante. Io lo so, è importantissimo. Sempre. No, pensavo che fosse utile pubblicarlo. Sì. Poi adesso ho visto con autocritica. Sì, ti spiego perché. Perché il livello del dibattito su questo tema è talmente raso terra, è talmente esposto ormai alla gazzarra e alla delazione. Sì, però resta il problema, eh? Certamente. Ma è posto male finora. Allora, il tema è l'esposizione creditizia. È di due tipi. Facciamo l'esempio veramente terra a terra. Allora, io c'ho un'azienda, vado, chiedo un fido alla banca di tot dimensione, pago regolarmente, ok. Quella è comunque un'esposizione creditizia. Poi c'è l'esposizione invece di un altro tipo, che vado, chiedo il prestito, il fido, non onoro le mie scadenze. Quella è potenzialmente un credito che va a deteriorarsi, diciamo così. Allora, se MPS, perché di questo stiamo parlando, becca i soldi pubblici, è giusto o no pubblicare i nomi di chi ha un'esposizione creditizia? Dai. Dipende, ci sono quelli buoni che pagano e secondo me non devono essere esposti. Non stiamo parlando di quelli, infatti. Aspetta, non devono essere esposti, ci sono quelli invece meno buoni. Poi si è detto, ma ci sono 100 grandi posizioni che valgono 10 miliardi di euro di esposizione per MPS. Vero, è così. E ce ne sono, diciamo, i primi 10 clienti valgono 3 miliardi. Bene, se io sono pronto a scommettere che la gran parte di questi è un buon pagatore. E in realtà il problema sono i piccoli e i medio piccoli che non hanno più onorato i prestiti, perché se no non si spiega la situazione del quelli botte. Sono 13 miliardi che sono esattamente quelli che servirebbero invece, che siano buoni pagatori, chi te lo dice? Appunto, è che siano cattivi, allora, se chi sono, ce lo dice? No, nessuno, ma vediamo se sono buoni o cattivi. Infatti, cattivi pagatori, cioè non pagano, e che si sappia chi sono. Certo, ma bisogna separare, essendo stato separare, perché altrimenti... Benissimo. Perché altrimenti qua si fa un danno colossale. Sì, giusto, però non bisogna neanche in nome della separazione essere silenti. Ma questo è impossibile in questo caso. Salamino! L'Epifania, tutte le feste si è portato via, ma nella calza col carbone fa capolino chi? Giovanni, secondo te chi è che fa capolino nella calza col carbone? E che Renzi, fa uscire la... che fa uscire la sua deliziosa testolina. Oggi dunque l'ex di tutti gli ex sarà a Roma è qui arrivato e metterà a frutto tutte le contrizioni, tutte le riflessioni, tutti gli impianti prosciugati tra Zampone, Cappone e Finocchiona. Pallido prence danese qual è, tra essere e non essere, spererà nel benessere mettendo riparo ai due bersagli falliti, quelli che l'hanno portata alla rovinosa sconfitta al referendum. Innanzitutto, cosa farà? Chiamerà a raccolta. Non ho l'età. Chiamerà a raccolta i giovani. Lo sai, Giovanni, lui cosa fa? Ha già pensato di chiamare nella segreteria del partito Pikachu. Poi ha abrogato le slide perché ha imposto le Snapchat. Si chiamano così, Mario? Snapchat? Guarda, io non uso Snapchat. Ma perché tu sei vecchio, ma loro che sono giovani, sì. Perché lo fa Orfini, lo fa Serracchiani, lo fa il ministro Martina. Mentre Piero Fassino, che insomma ha la sua età, fa però la sua figura, è stato invitato a consumare Chupa Chups in ma pubblico. Deve ciucciare sti Chupa Chups piuttosto che altre cose tipo Valde o peggio arachidi, perché tanto a lui il mantello di Super Pippo non gli arriva, non gli arriva. Un'ipotesi vincente poi qual è? Quella di Renzi, che, di cui parlerà oggi, quella di recuperare il suo UFO robot, cioè chi è? Denis Verdini, perché tanto il target giovane è preservato, però l'effetto vintage, che pare assodato, funzioni molto nel porno. Ma dove? Sì, certo, nel porno funziona l'effetto vintage. Lui dilaga a tal punto di assicurare un bagaglio al redivivo Renzi, quale l'altro mancato bersaglio. Qual è l'altro mancato bersaglio oltre ai giovani? Qual è quello dei... Parleranno tutti quanti, tutti i medici e sapi. E appunto quello degli intellettuali, perché lui dovrà oggi dialogare coi dotti, confrontarsi coi medici, aprirsi ai sapienti. Questo è il proposito di Matteo Renzi oggi a Roma, che incontrerà infatti l'importante scrittore Gianrico Carofiglio Barese, e per sottrarlo a chi? Per sottrarlo a Michele Emiliano, governatore delle Puglie, viceré del Sud, pronto a sfidarlo alla segreteria del partito, perché è sempre astuto l'astuto Renzi. Molla il giglio e si butta sul tarallo. Ma una fiaba, caro Giovanni, metterà d'accordo piano giovani e intellettuali, perché da Madonnina è diventata Fatina. E la domanda che ci domandiamo tutti quanti è, a questo punto, che cosa farà Maria Elena Bostic? Cosa farà? Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio. Beh, però ha chiuso una grande canzone. Morire canzone. Vite l'ombra di un desiderio. Beh, sai, per Maria Elena Bostic, mica poco, bello. Ma proprio, ma tra voi com'è finita poi? Tra me e Maria non c'era uno scambio di intellettuali, intellettuali sensi? Non ero. Ce l'ho fatta, ragazzi. Non ce l'ho fatta tutte. Ho letto niente, non ti dà ascolto. Niente. Malgrado quel paginone sul foglio, niente. Non c'è niente da fare. Ho provato in vabbè, tutto. Ma con un'altra bolla, che consolati. Io sono una goccia consolati per consolati con la nuova bolla. Va bene. Pezzo meraviglioso questo, mi ha imparso un project. Don't answer me, non chiedermi, non rispondermi. Allora, ma facciamo giusto una puntatina in Germania, che sempre, rimane sempre il paese più importante d'Europa. Sigmar Gabriel dovrebbe essere lo sfidante, per conto dell'SPD, di Angela Merkel, che cerca il quarto mandato da cancelliera. È una cosa importante, perché si pensava che fosse Schulz, l'ex presidente del Parlamento europeo, a guidare la sinistra, diciamo, nella battaglia contro i centristi. centristi, sì, merkeliani, e invece pare non sarà così. Sigmar Gabriel è anche il ministro dell'economia, nonché il leader della SPD, ed è interessante vedere che ci sono alcune anticipazioni che dicono che sostanzialmente la sfida sul programma sarà sul disparità economiche in Germania. Questo è, ripeto, molto interessante, perché tutto quello che succede in Europa nel 2017, che è appena iniziato, dipende moltissimo da quello che dalle succede elezioni in Germania e in Francia, elezioni che sono prima. Certo. A proposito, secondo te chi vince in Francia? Te lo dico dopo la pubblicità. Pubblicità! Mix 24. Il 10 gennaio del 1960 per la prima volta va in onda Tutto il calcio minuto per minuto, programma che ha fatto la storia della radio entrando nel linguaggio degli appassionati e non solo. È arrivato Bortoluzzi, quello con la voce più grossa di tutti, proprio perché lui aveva secondo me il microfono grosso così, per cominciare faceva... Bene, comincia Tutto il calcio, mi sentite? Ameri mi senti? Ameri non mi sente, andiamo ancora a Napoli, Napoli mi sentite? Mi sentite in Napoli, non ci sentono, andiamo ancora ad Atalanta? Atalanta mi senti? Atalanta non ci sente? E allora andate tutti... Scusa, ti interrompo, sono Luzzi, ti chiamo per comunicarti che ancora il calciatore che si chiama Bastrocchio sta battendo un fallo laterale. Ideata da Guglielmo Moretti e da Sergio Zavoli, la trasmissione con la radiocronaca delle partite accompagna gli italiani lungo le sfide a pallone, con decine di collegamenti simultanei e con un nucleo storico. Quando parliamo di nucleo storico di Tutto il calcio minuto per minuto, parliamo di quel quartetto formato da Enrico Ameri, campo centrale, Sandro Ciotti, secondo campo, e poi c'eravamo io e Alfredo Provenzali che ci dividevamo le altre due partite, e poi c'era Ezio Luzzi che faceva il campo principale della Serie B. Gli inizi sono pionieristici, senza monitor, senza registrazioni e con collegamenti brevi di un minuto per campo che non prevedono interruzioni, fino allo scusa a Ameri per segnalare un gol imprevisto della Roma. Si dà inizio così a un nuovo modo di raccontare il calcio, con l'interruzione che diventa spettacolo. Roberto Bortoluzzi, a te Enrico. Qui Enrico Ameri, a te Sandro. Grazie Enrico, a te Alfredo. Alfredo Provenzali, in linea a Claudio. Qui Claudio Ferretti, a te Carlo. Davvero fantastica, ha segnato la storia, una storia stupenda, la sentiremo raccontata tutta dopo il giornale radio. Ricordo ai nostri ascoltatori che molto gentilmente ci scrivono spessissimo e ogni tanto diamo lettura degli sms, soprattutto non la diamo molto perché non sono quasi mai firmati. Allora, vorremmo, l'abbiamo detto mille volte, vorremmo che insultateci, dite quello che volete, ma firmatevi, quei rari anche che ci fanno i complimenti, firmatevi anche voi, che così è meglio. E adesso con il professor Roberto Bernardi. No, Mario, c'è un aggiornamento? No, un aggiornamento vero e proprio non c'è, nel senso che non ci sono grandi novità per ora. C'è un grosso dibattito su ancora gli Stati Uniti, Trump e le automobili dopo la mossa di Marchionne. L'apertura del Financial Times, per esempio, in questo momento è proprio su questo. Come la giudichi tu la mossa di Marchionne? Come si dice a Roma, paraculo. Mi sembra veramente una velocità di riflessi. Beh, però, proprio straordinaria. Ha evitato, sono stati bravi. Dai. Bravissimo perché è stato. Ha evitato il tweet negativo di Trump e l'ha avuto positivo. Com'è? 20 secondi ci sono. Dilli. No, potete mandare Pupella. Ugazzone. Ascolta. Non c'è, fa freddo fuori. Oh, mamma mia, sì, cari, si fa freddo, capite che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, capito? Fa freddo, fa freddo. Allora? Fa freddo. 3, no, 800 24 00 24, e il numero verde 349-238-6666, l'SMS per chi vuole indovinare questo canzoniere. Senti, e se no lo risentiamo domani ancora, comunque. Ti posso molestare? Non ho secondi. No, non mi hai detto cosa ne pensi. Te lo dico domani, così aspettiamo. Di Grillo e liberali, domani. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Circulation, settembre 2016. Gli esperti riflettono sul troppo esercizio fisico. Ve l'abbiamo detto ormai un milione di volte, l'esercizio fisico ha un sacco di effetti positivi perché abbatte le malattie cardiovascolari, combatte l'ipertensione, aumenta la longevità, forse ha effetti anche sulla demenza, insomma, come ti volti, aveva ragione quello che diceva che se mettessimo l'esercizio fisico dentro una pillola sarebbe il farmaco più venduto al mondo. Allora, noi sappiamo che la dose giusta è di 150 minuti settimana di esercizio moderato intenso o 75 minuti di esercizio vigoroso. E qualcuno ha detto se allora l'esercizio fisico è una medicina, forse potremmo avere problemi di sovradosaggio, di troppo esercizio fisico. E allora in effetti sono andati a studiarlo ed è un editoriale riflette un po' sul beneficio o maleficio dell'esercizio fisico troppo intenso e per troppo tempo e i risultati sono che, signori, l'esercizio fisico troppo intenso non ha effetti sulla mortalità, ma certamente può addirittura avere una aumentata aterosclerosi. E certamente anche la diminuzione della frequenza che causa, insieme alla dilatazione delle camere del cuore, può aumentare l'incidenza di fibrillazione atriale. Quindi, come al solito, bisogna far tutte le cose con giudizio e evidentemente esercizio sì, ma senza esagerare. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per i nostalgici dei propri addii. È il nuovo singolo di Baustelle e si intitola Amanda Lear. Amore antico, amica mia. Amore radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia, se quest'anno ti hanno visto.